piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Per il coronavirus ho chiamato il centro 115 del virus, ho parlato anche con il centro di Napoli per il coronavirus, adesso ho chiamato, ha detto dobbiamo chiamare i nostri dottori, i preati, i bambini, dobbiamo fare questo tampone farmaceutico, tutti quanti noi dobbiamo stare sotto controllo e dobbiamo stare, virgolette, in quarantena anche noi. Perché noi dobbiamo cercare di lavare molto le mani, ha detto adesso, che adesso ho finito di parlare, e niente, dovevamo fare tutto questo tampone faragetico, tutti, perché adesso ho parlato con l'ARS di Napoli, per il coronavirus dobbiamo stare sotto controllo, tutti quanti. È inutile ironizzare su questo che ormai è diventato un meme in rete, ma è uno dei tanti, di persone semplici, con una limitata elaborazione di pensiero sulla contemporaneità, con un linguaggio sicuramente che non è quello dei conduttori televisivi e radiofonici, che però a modo loro cercano per quanto possibile di rendersi utili o di diffondere quelle che considerano norme di sicurezza in questa emergenza emotiva e anche reale che ci sta travolgendo. Dico, non infieriamo, perché potrei citare nome e cognome di signore e signorine di alto lignaggio, super laureate, probabilmente anche molto elaborate dal punto di vista dei contatti sociali e culturalmente veramente elevate, che scrivono nei social: state al sole che il sole ammazza il coronavirus, o bevete il tè caldo. Ecco, oggi c'è spazio per tutto. Quello che mi interessa proprio stamattina analizzare e riflettere assieme a persone che hanno comunque un osservatorio attento sul fenomeno è la comunicazione al tempo del coronavirus, nell'accezione però particolare della comunicazione legata alla possibilità individuale di farsi vettore di notizie. Guardate, forse è la prima volta da quando siamo collegati tutti a un'intera rete, abbiamo tutti facoltà e possibilità di esprimere il nostro pensiero, di avere condivisione delle nostre opinioni, di portare il nostro contributo alla generale riflessione sull'attualità, che attraversiamo un momento così particolare. L'epidemia, attraverso la sua lettura social, riprende dei temi antichi, dei temi classici. L'umanità collettivamente reagisce alle paure sempre nella stessa maniera. Girano dei telegiornali degli anni 60 legati all'influenza asiatica, in cui ci sono molte verosimiglianze e sovrapposizioni a quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo visto foto della influenza spagnola in cui si vedono i tramvai dell'epoca, siamo nel 1917, con persone che salgono e scendono con le mascherine, esattamente come oggi. Ma oggi c'è una circostanza accessoria in più. Oggi ognuno di noi può farsi portatore comunque sia della verità sia della falsa verità. E nel regno dell'indifferenza rispetto a un concetto oggettivo di verità, è chiaro che l'emotività legata alla scarsa capacità di avere certezze rispetto a quello che realmente stia accadendo, in un mezzo che in sé ha come sua cifra essenziale quello di essere basato sull'ambiguità, perché non può essere che ambiguo, un mezzo in cui tante verità si assommano e ognuno dà la sua verità soggettiva e diventano una sorta di somma di un mondo parallelo che nulla a che fare con la verità. Come dice Baudrillard, in tempo di guerra la prima vittima è proprio la verità. Non siamo proprio in una guerra, ma possiamo considerare comunque un momento di conflitto questo, e mai come adesso la verità appare come prima vittima. Prima la colpa dei polli, poi dei pipistrelli, poi dei suini, infine dei serpenti. E allora io ho capito che ci considerate carne da macello, né più né meno come dei pecoroni. È ora veramente di smetterla, e soprattutto noi di svegliarci da questo Matrix. Il gioco è finito. Dovevamo, secondo i grandi giornalisti, camminare sopra montagne di cadaveri virulenti. Le uniche montagne che abbiamo visto non erano di morti, ma erano di soldi. Per chi? Per le solite note. Anche oggi le case farmaceutiche che stanno lavorando alacremente per la produzione del vaccino, dell'ennesimo vaccino, stanno fatturando miliardi di dollari e devono ancora produrlo. Figuriamoci quando sarà pronto, la popolazione si fionderà. Questo naturalmente è un altro versante, visto che ci troviamo in un confrontarsi e rinfacciarsi di tante realtà parallele, tutte con lo stesso grado di esistenza e di dignità, purtroppo, perché nel social il canale YouTube del signor Marcello Pamio, che dice che è tutta colpa delle case farmaceutiche che devono fare un nuovo vaccino, e naturalmente anche questa è una verità che avrà dei proseliti, avrà persone che la prenderanno per tale, avrà gente che andrà a cercare e verificare nelle infinite fonti di internet il vero o il falso rispetto a questa affermazione. E tutto questo però si riflette in comportamenti. E quanto i vostri comportamenti sono influenzati da questo mondo in cui sembra sullo stesso piano l'eroico pezzo di Massimo Gramellini, dice oggi vado a Milano, come dicesse, entro in un lazzaretto nel momento più cruciale della peste e bacio le piaghe degli appestati, come facevano alcuni mistici del 200, e questo signore che dice che secondo lui è sicuro che sono le case farmaceutiche che hanno diffuso il virus per poi vendere i vaccini. Vincenzo Cosenza, buongiorno. Buongiorno. Allora, Vincenzo Cosenza, lo abbiamo spesso come ospite, è responsabile marketing di Basulca, una piattaforma di influencer marketing. È esperto in comunicazione e social media, dell'interazione sulla politica, e sta facendo anche lui uno studio, per questi ha gli strumenti a disposizione per farlo, sugli effetti del coronavirus in una sorta di meccanismo di comunicazione fatto di fonti ufficiali, di fonti aperte, di comunicati istituzionali e tutto il contrario di tutto che trapela dai social. Insomma, non si è mai vista un'incoerenza così generale in cui è difficile stabilire i ranghi. Allora, comincia a dirmi come ti sei mosso, quali sono le tue fonti e quali sono i primi, diciamo, le prime riflessioni che possiamo fare. Sì, io guarda, ho provato a incrociare l'andamento dei casi di contagio nel corso del tempo con l'andamento dei volumi di conversazioni in rete in questo periodo, e ho notato un po' di stranezze. La prima stranezza riguarda una prima fase in cui vengono riportati i primissimi casi, però immediatamente c'è un picco di conversazioni enfatizzate molto dalla comunicazione dei mass media, che tendevano un po' a dare molto rilievo a questi primissimi casi. Allora, vediamo un po', tanto come base, poi andiamo avanti nella tua analisi. Sì. Intanto dico al pubblico, chiamate 800 24 00 24, mi piacerebbe sapere voi a quali fonti vi ispirate per determinare i vostri comportamenti. Guardate il giornale, date fiducia al telegiornale, guardate in rete i siti ufficiali dei ministeri, delle unità di crisi, della protezione civile, del governo, e a quello vi riferite, oppure vale anche tutto quello che vedete nei social, che vi scambiano le amiche, il sentito dire della persona che vi fidate? Ecco, secondo te esiste una capacità di discernere il rango di affidabilità delle notizie in questo momento, proprio da questo tuo oscillare che vedi a seconda dei numeri delle vittime, sui quali c'è anche lì un'ambiguità immensa? Varia molto da persona a persona. È vero che è soltanto, come dire, una minoranza ha la voglia, il tempo, la capacità anche di andare a cercare in rete i brandelli di verità, cioè quindi non fermarsi alla superficie del tweet magari lanciato da una persona di cui ci fidiamo, ma che potrebbe anche non corrispondere esattamente alla verità. Quindi la capacità di approfondimento devo dire che non è da tutti, o comunque quello che si nota è un rilancio delle notizie molto rapido per stare sempre sull'onda della notizia, magari non andando ad approfondire prima. Ecco, tu allora mi hai detto, hai analizzato un primo flusso, un primo scatto nei social quando cominciavano a uscire le prime cifre. Una seconda fase quando il Presidente del Consiglio, sembra fra il 23 e il 24 febbraio, ha cominciato a fare un tour televisivo, a farsi vedere col maglioncino, nella situazione di Presidente in fase di emergenza, a fare delle dichiarazioni. Cosa è successo in quel momento? Sì, in quel momento abbiamo appena avuto il picco maggiore, oltre 260.000 conversazioni proprio su questa, a commentare le uscite di Conte, ed è stato chiaro però dal tenore delle conversazioni che questo suo intento tranquillizzante in realtà aveva ottenuto l'effetto contrario. Questo mostrarsi all'improvviso ovunque, mentre fino a qualche giorno prima si tentava di tranquillizzare l'opinione pubblica, in realtà ha avuto l'effetto contrario. Quindi grande picco, anche se siamo ancora in presenza di pochi. Ecco, io ti faccio una riflessione mia, sì. Me ne prendo tutte le responsabilità. Allora, il presidente Conte, dalla sua prima uscita, da quando si è dichiarato l'avvocato degli italiani, aveva comunque una sua divisa, come il costume di Paperino da marinaio o il cilindro di zio Paperone. Aveva un impeccabile vestito di alta taglia di sartoria napoletana, con la pochette di cui addirittura i giornali si sono preoccupati di mostrare com'era piegata, con le tre punte, con la massima scuola dagli elegantoni. Se all'improvviso ti appare con un maglioncino sciatto in una sede di emergenza, ti sembra che sta per fare le valigie per scappare anche lui? È chiaro che la gente si preoccupa, o sbaglio? Sì, sì, esattamente questo, cioè lo scenario rappresentato era uno scenario effettivamente di allarme, di crisi, di quasi di guerra, e quindi quella situazione ha determinato l'allarme, ma anche il presentarsi in un'unica giornata su tutte le reti televisive all'improvviso ha scatenato quantomeno dei dubbi negli italiani, e quindi li ha mandati in confusione. Quindi si è passati da una prima fase di comunicazione tranquillizzante, anche sotto tono, a una successiva fase molto più diciamo presente e incisiva, che ha destabilizzato l'opinione pubblica. È un po' difficile poi fare il percorso inverso. Quando tu hai seminato con un'immagine, con un'iconografia forte, pregnante, la persona che rappresenta l'istituzione, quindi è come se avesse il mantello d'ermellino addosso, improvvisamente vista in atteggiamento informale, con un dress code da fine settimana in un casale in Salento, chiaramente la gente dice: qua sta succedendo qualcosa. Poi hai visto una terza fase, la terza fase quando è avvenuta? Sì, la terza fase subito i giorni successivi a questo picco, in realtà le conversazioni sono andate un po' a scemare, e questo punto di massima diminuzione si è avuto proprio con l'aumento dei casi, con l'inizio dell'aumentare dei casi. Ovviamente ora invece siamo in una fase in cui la gravità è molto chiara, e quindi sono aumentati i casi, ma sono aumentate di nuovo anche le conversazioni. Quindi c'è stata una terza fase in cui le persone, come dire, si erano un attimo, come dire, stancate forse di commentare eccessivamente l'accaduto, cercavano in qualche modo di probabilmente di approfondire prima di parlare troppo pubblicamente. Ecco, tu puoi anche vedere quello che è, o valutarlo secondo la tua esperienza, l'uso del meme. Improvvisamente, anche se la situazione diciamo non è di quelle che fanno sorridere o portano all'ironia, improvvisamente alcuni personaggi, per la loro non ufficialità, per la loro approssimazione, io ho fatto sentire queste signore, ma ce ne sono tantissimi, la nonnina che dà i consigli per mantenersi sicuri e sani, che fa ridere, lavando continuamente, è stata mandata in tutte le salse, poi ripassano in televisione. Ecco, l'aspetto divertente, ironico, leggiato, che è tipico della rete. La rete nasce proprio su una rappresentazione anche grottesca delle realtà ufficiali. Ecco, quanto incide poi nel portare a comportamenti, secondo te non efficienti e non sicuri in questo momento, o a far sì che tutto sembri una grande narrazione fantastica, ipotetica, ma sì, alla fine è tutto un gioco? Beh, dipende molto dai livelli, nel senso che se il livello dell'ironia si mantiene su un certo tipo di, non sale tantissimo, diciamo così, ma viene comunque mantenuta a fianco una componente di seriosità, direi che siamo in una situazione di tranquillità. Quando questa ironia, come dire, è eccessiva, quindi produce troppe conversazioni sono basate sull'ironia e su un livello di ironia che può può portare a comportamenti, come dire, non corretti, e questo potrebbe preoccupare. Per esempio, in un ambito come TikTok, che sto monitorando, c'è molta ironia e molta voglia di scherzare sul tema, che su un pubblico, diciamo, molto giovane potrebbe effettivamente portare dei comportamenti non correttissimi. Ecco, ricordo, poi ci fermiamo un istante, riprendiamo con te fra un minuto, che TikTok proprio in questi giorni ha dovuto censurare una delle tante sfide dei ragazzini che si mangiano il sale fino a vomitare. TikTok è il luogo della idiozia portata a livello di tendenza giovanile, in cui i ragazzi fanno dei brevissimi video, molte volte su colonne sonore, su tormentoni che sono sempre gli stessi, ma in particolare il luogo in cui si faceva questa sfida, che è una sfida che ha già qualche anno, in cui ingerivano sale in quantità industriali fino a star male. TikTok ha dovuto porre una censura su questo comportamento perché è molto dannoso alla salute. Ci fermiamo un istante. Ehi, hey, qual è il software numero uno per gestire logistica di magazzino e trasporti? Smile, di Replica Sistemi. Ok, e per il settore alimentari e bevande? Smile. Ciao, per l'industria meccanica? Smile. Per tessile e moda? Smile. Smile di Replica Sistemi da sempre è Smart Integrated Logistics, la piattaforma software WMS, TMS e Yard Management System da integrare al tuo gestionale. Più storie di successo in tutti i settori. Replica Sistemi, replica successi. Zucchetti Group. A bordo della nuova BMW Serie 1 118 IM Sport ti sentirai così. Bella atmosfera, yeah. Ti prego non mi uccidere il mondo. Guidala senza acquistarla con il leasing Y-Buy da 200 euro al mese, inclusa estensione garanzia a 5 anni con chilometri illimitati. Dan 1,90, TAEG 3,69. Fino al 31 marzo. Salvo approvazione BMW Financial Services. Fogli informativi su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Avete visto, padre? Questo divano l'ho fatto io con le mie mani. Ho messo insieme il legno e il tessuto in modo che... Vincenzo, di creazioni, ne so qualcosa. Ciò è vero. In Poltrone Sofà è arrivata la nuova collezione Luce, con il molto più dei saldi al 70% di sconto. E solo fino a domenica 8 marzo la consegna è gratuita. Ma termina sempre domenica? Domenica è il giorno più bello, o no? Poltrone Sofà, autentica qualità. In montagna abbiamo imparato a camminare passo dopo passo in sicurezza. Così noi di Mediocredito Trentino Alto Adige abbiamo creato per i risparmiatori un conto deposito dal rendimento sicuro. Conto rifugio. Sicuro, solido, affidabile. Come noi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Si stanno accentuando le perdite tra le borse europee con i primi futures che arrivano da Wall Street e che sono di nuovo in profondo rosso, e quindi anche l'America oggi dovrebbe ripartire in calo di circa 2,5 punti. In netto ribasso anche il prezzo del petrolio, peraltro con il WTI, il greggio di riferimento americano, che viaggia a $43.50. Ricordiamo che ieri c'è stato un'intesa di massima che adesso deve aspettare anche la Russia su un taglio della produzione mondiale di greggio da almeno 1,5 milioni di barili al giorno in corso alla riunione dell'OPEC a Vienna. Tornando all'Europa, dicevamo, si viaggia in calo pesantissimo con le forti vendite che oggi riguardano ancora una volta il settore dei viaggi e quello dei servizi finanziari, oggi tra i comparti più colpiti. Parigi meno 3,66%, Francoforte meno 3,50%, Londra meno 3%, Milano meno 3,40%. Anche lo spread fra BTP e Bund è risalito, stamattina adesso è a 183 punti base. A Piazza Affari non si salva nessun titolo. Poste Italiane è quello che argina le perdite con un calo dello 0,38% dopo aver comunicato i risultati sul 2019, che hanno manifestato ricavi in crescita dell'1,6% ad oltre 11 miliardi di euro per lo scorso anno. Fineco, Bank di Assorin, i titoli che perdono meno, un punto percentuale comunque di ribasso, meno 1,5 punti per Amplifon, meno 2 per Enel, Recordati e Nexi, i peggiori in assoluto Prismian, meno 8,83% sulle warning rispetto al 2020, Atlantia meno 8, Salvatore Ferragamo meno 6, Azimut meno 5,68%. Come dicevamo, oggi Wall Street a quanto pare aprirà negativa, vedremo se a risollevare la situazione potrà contribuire il dato sulla disoccupazione di febbraio che verrà diffuso nel primo pomeriggio. Per il momento è tutto, i mercati tornano alle 13.30. Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Avviso di superamento della corsia. Sistema di assistenza a partenza in salita. Connettività Apple CarPlay e Android Auto. Ma che cos'è? Un nuovo pezzo trap? Sono gli optional che voglio sull'auto. Ma Crossland X ti dà tutto di serie. Canta meno e guida di più. Opel Crossland X, il SUV compatto da 12.950 euro. Info su opel.it. Denti che si muovono? Gengive che sanguinano e si ritirano? Alitosi? Vieni da EDN ed entra nella clinica odontoiatrica del futuro. Dai nostri laboratori di ricerca, la soluzione. Oggi la parodontite si può curare senza estrazioni o impianti. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama l'800 090 106 o visita il sito parodontite.it. La primavera si avvicina. Tu ricordati di tenere lontani i parassiti, con gli antiparassitari scontati fino al 40%. E poi concediti una pausa davvero gustosa con le ghiottonerie Felix, buste da 100 grammi a 49 centesimi l'una, o con le crocchette Purina One Cat da 800 grammi a 2,90 euro. Ma affrettati, le promozioni scadono l'8 marzo. Ah, grazie! Allora No, scusi, parlavo con Lea. Ogni giorno mille promozioni da Arca Planet. Pet Store, Pet Stories. A volte fare impresa è come correre con una valigia in mano. Meglio se te la fai portare da qualcuno. E meglio ancora se è un amico. Con INAZ hai un outsourcing sicuro per gestire le tue risorse umane. A cominciare da subito. INAZ. Human Energy. Melog. Ed è una cosa molto grave, dobbiamo stare attenti, usciamo poco, dobbiamo andare proprio almeno a scuola, poi almeno uscire un po' la sera. Io ho un po' paura perché davvero si rischia in grande, poi per quanto riguarda il calcio, il campionato cinese è stato sospeso. Ne parla maffa, non l'hai visto? Che sanno già tutto, tutti danno consigli. Ma... Saputelli, ascoltate la nonna, la giurista epidemie, chi se la scorda la peste di Milano? Ah, che nipoti miei, Renzo e Lucia, ti ho salvato per miracolo, grazie ai consigli miei. Vai, vai, attacca. Questi due dei personaggi che stanno diventando emergenti, come una nuova, un nuovo teatro delle maschere. Uno è il biondo Matti, che è un ragazzino napoletano che anche qui racconta la sua visione del coronavirus, e l'altra ormai è diventata notissima, è la nonnina di Casa Surace, che dà i consigli sul coronavirus. Sì, fanno ridere, fanno sorridere, ma bisogna anche fare un po' di attenzione, perché io l'ambito soltanto il problema, ma cominciano a esserci segnali certi che il mondo Novax, naturalmente, come faccia già per il morbillo, sta cominciando a parlare di coronavirus party, cioè mettete tutti insieme in una stanza così si rafforzano, si prendono tutti l'influenza e così si rafforzano le difese immunitarie. Ecco, queste sono cazzate madornali che possono essere anche molto pericolose. Ci sono varie circostanze che fanno rimbalzare il passato, il presente, l'arcaico sommerso con il riemergente arcaicismo che molte volte trapela anche dal mondo apparentemente integro dai mali del passato e pieno di tutti i mali del presente, che è quello dei social. Ci sono notizie che le chiese fanno attenzione, il segno della pace viene sconsigliato, si annullano i catechismi, si sbarrano gli oratori. Franco Cardini tuona: una volta durante le pestilenze la gente si univa a pregare, adesso si chiudono le chiese. Beh, ragazzi, nel frattempo hanno scoperto che le pestilenze passano attraverso i virus, i bacilli, e non per influenza maligna, e quindi la gente, se vuole pregare, può anche pregare, diciamo, via Skype o pregare in solitudine, tanto se il Padre Eterno è ovunque, non occorre fare gli ammassi, ovunque ci vede, possiamo pregare anche nel ricettacolo della nostra stanzetta. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono anch'io uno di quelli che ero lì tra i giusti termini, però con calma, perché ci sono dei morti purtroppo. Quindi, però lo Stato ha sbagliato a lanciare così Secondo me è sbagliata la psicosi che ha lanciato lo Stato, ecco. Quello è stato un grande sbaglio. L'hai sentito colpito, lei... si è sentito colpito da un senso di psicosi collettiva? No, per niente, no. Se me la piglio, guarda, io sono sano. Se uno se la piglia, sa di essere sano, sa che non rischia e viene curata la cosa. Purtroppo per quelli che hanno problemi, però rischiano. Quindi se uno che si sente sano e sicuro della propria... però si potrebbe essere portatore anche per gli altri, quindi lei deve pensare anche oggi, primo morto a Roma, una signora... Dove sono andato in un paio di posti dove hanno misurato anche la febbre, 36, quindi, voglio dire, sì. Hai capito? Sì, sì, è una precauzione, ma non è, diciamo, la soluzione di tutto, anche me l'hanno misurata l'altro giorno, certo, per strada, certo. Però va bene. 800 24 0024, stiamo cercando di capire qual è il livello di percezione di una possibile verità nel grande caos fra comunicazioni istituzionali, comunicazioni social che entrano in cortocircuito. Isaac, buongiorno. Ah, buongiorno, ecco. Ascolta, io le cose che io ho visto con i miei occhi e quelle che io voglio proprio pubblicitare, che voi agenti capisci, mi sembra 11 febbraio o 12 febbraio, io alle 5 di mattina mi sono svegliato di prendere un caffè, insomma, dopo il caffè io sono andato al mio balcone per fumare, io abito nel settimo piano, e improvvisamente io vedevo sul cielo, no? Sì. Ecco, tre oggetti, come una cosa come aeroplano, però così qui non è aeroplano proprio, perché sono tutti insieme. Prima io ho visto uno... Ma saranno dei droni, potrebbe essere dei droni, semmai. Potrebbe essere uno, diciamo, alieni, o non lo so, esami. Ecco, un'altra versione aggiunge. Esatto, un'altra versione, questo qui è proprio diverso. Io lo vedevo che uno è venuto prima, poi c'è uno secondo, qualche minuto, poi c'è un altro secondo, sono tutti e tre, sono fermati, stesse posizioni. Quindi lei suppone, Isaac, e Intonti mi fa questi scherzi, manda le telefonate che potrebbe fare a meno di mandarmi, lei suppone che come avviene per le scie chimiche, sono aerei che gettano il prodotto che cambia il clima per dimezzare la specie umana, qualcuno stia diffondendo il virus con mezzi aerei forse alieni. Esatto, questo è che io sospettavo. Perché io... Ma lei cosa faceva, prima di avere questa visione, cosa faceva a casa sua? No, io un momento, ogni mattina mi sveglia, qualche volta che non mi viene sonno io vado al balcone per fumare. Ma cosa si fuma, Isaac? Cosa si fuma? No, sigarette. Ah, vabbè, sono fatti solo. sigarette, infatti. Allora, io sono lì, un momento dice c'ero così bella luce, c'è... E vede questi oggetti che spargono qualcosa e lei si fa una domanda, beh, giusto se la faccia, ma non voglio contribuire a mettere... Sì, l'ho fatta parlare, le do piena libertà, come lei ha libertà di esprimersi o di scriverlo nei social, però è una questa delle tante notizie che certo non fanno bene a mantenere dei comportamenti propri e corretti nella popolazione. Stavo parlando con Vincenzo Cosenza, che ricordo è il responsabile marketing di Basul, che si occupa appunto di influencer marketing. C'è un'ultima considerazione, volevo fare con te. Alla fine noi abbiamo fatto un'analisi di due flussi che dovrebbero andare nella stessa direzione, cioè quello di condividere informazioni, notizie utili a dei comportamenti propri per tutti, ma che in realtà sono entrati in cortocircuito. Ecco, qual è stato il momento, secondo te, di maggior rischio per cui la comunicazione generale in questo cortocircuito fra social e voci ufficiali può creare dei comportamenti, diciamo, a rischio per la popolazione? Ma il problema fondamentale è che la comunicazione, quella che doveva avvenire dalle istituzioni, è stata poco coerente e non coordinata, quindi poco coerente. C'è entrata anche la politica, a un certo punto si sono tutti dimenticati che poi il paese è di tutti e hanno cominciato a darsi contro giocando sul terreno infame della gestione della crisi, quindi già questo basterebbe. Sì, da lì parte tutto, quindi una comunicazione non coerente nel tempo. Prima tranquillizzazione, poi un po' di drammatizzazione, non ha aiutato, poi non coordinata a livelli regionali e locali, quello anche ha inciso tantissimo, e c'è in generale una sottovalutazione proprio del ruolo della comunicazione, secondo me, in ambito politico. C'è questa idea che, insomma, come dire, non sia una professione quella del comunicatore. Ma come, scusa, mi stai dicendo una cosa che secondo me in questo momento non c'è mai stato un governo è un momento politico in Italia in cui abbiano fondato sulla comunicazione capillare tutta la loro forza, sia maggioranze che opposizioni. Non ci dimentichiamo la bestia di Salvini, non ci dimentichiamo l'uso dei social dei 5 Stelle, non ci dimentichiamo tutto quello, non cito il PD perché ha fatto sempre cose disastrose negli ultimi 2 anni sulla comunicazione, però tutti ci hanno provato perlomeno a conquistarsi questa grande platea di persone. È chiaro che in questo momento, se il terreno di scontro diventa un'emergenza nazionale, è come quando stanno 3 persone in una stanza e si sente un cattivo odore, l'hai fatta tu, a forza di darsi la colpa di chi ha fatto la puzzetta, alla fine non si dice qual è il sistema migliore per aprire la finestra e farla uscire. Sì, ma proprio nel caso della comunicazione di crisi, diciamo, tutti i nodi vengono al pettine, lì è un momento topico in cui è molto difficile coordinare un'unica voce, e quindi qui sono un po' caduti tutti. Allora, io adesso introduco un altro ospite, lo presento soltanto, poi ci sentiamo nella parte residua della trasmissione. Gianluca Dotti è un giornalista scientifico, collabora con la rivista Wired, per la quale ha seguito molto il caso coronavirus. Ti sei trovato molto materiale per le mani, Gianluca, in questi giorni? Sì, di tutti i tipi. Tanto buongiorno a te, agli ascoltatori. E effettivamente in questo momento stanno proliferando un po' dappertutto, da un lato teorie del complotto di varia natura, non conoscevo questa degli alieni, però ce ne sono che vanno, diciamo, dalla vecchio Big Pharma. Vabbè, è un succedaneo della classica sulle scie chimiche, secondo me ci sta che alla fine venga fuori. Non è la CIA ai poteri forti, ma sono gli alieni, in questo momento finalmente sferano l'attacco finale contro terrestri, vogliono fare loro schiavi e usare per introdurre sonde innominabili e cibo per i loro bambini. Fermiamoci un istante, perché fra un po' mi dirai quelle che sono le bufale più diffuse. Fra un secondo. Strade in diretta. Ben ritrovati sulla 30 Caserta Salerno, code per il traffico intenso in viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, e poi proseguendo sulla 2 del Mediterraneo, code fino a Baronissi, sempre in direzione Salerno. E tutto Strada in diretta, torna tra mezz'ora dopo. Melog 800240024, cerchiamo se possibile, ma trovo che sia un lavoro improbo e una fatica, secondo me, che alla fine lascerà il tempo che trova, però fare un po' di ordine, trovare dei segnali di senso nella comunicazione in questo momento ci attraversa sul coronavirus, che è una comunicazione che ha 2 identità di partenza distinte, ma alla fine va a finire in un unico grande calderone. Da una parte la comunicazione ufficiale, istituzionale, che però in qualche maniera è inquinata dalla tensione politica che non è mai scesa, e quindi non sappiamo mai se è una comunicazione legata dal desiderio comunque di dimostrare l'efficienza di una parte piuttosto che un'altra, o realmente dall'interesse proprio del paese. E poi la comunicazione social, che è tutto e il contrario di tutto. Ne abbiamo avuto testimonianza, l'ascoltatore che la mattina si affaccia fumando al balcone è sicuro di aver visto astronavi aliene e oggetti non identificati che spargono l'unto del coronavirus. Allora, mi sono interrotto con Gianluca Dotti, che è un giornalista scientifico serio, corretto, uno dei pochi che scrivono con cognizione di causa, scrive su Wired e sta analizzando quali sono le bufale più diffuse sul coronavirus. Allora, a parte quelle che abbiamo già lambito, hai qualcos'altro? Sì, ce ne sono tantissime, e bisogna dire una piccola premessa, che in questo momento i consigli anche un po' artigianali hanno vita facile, perché effettivamente siamo in una fase in cui del coronavirus ancora sappiamo relativamente poco. Cominciano ad accumularsi statistiche e certezze, però in uno scenario che comunque ha un certo margine di incertezza al momento, trovano vita facile delle ricette. Un po', cioè, la nonna di Casa Surace come il ministro Speranza, sullo stesso piano. Che in effetti, diciamo la verità. Il rischio è un po' quello, anche perché poi da parte istituzionale ovviamente c'è la difficoltà enorme di trovare il giusto livello nella comunicazione per non sfociare né nell'allarmismo ma neanche nel menefreghismo, che è un equilibrio molto difficile da mantenere, soprattutto giorno per giorno. Infatti vediamo che anche il livello di allarme, come si diceva poco fa, oscilla molto anche sui social, mentre il trend dell'epidemia di fatto è estremamente regolare. Chi ha analizzato i numeri del contagio sta vedendo un legame matematico con il passare del tempo che è precisissimo. Venendo ai consigli, allora avevamo già citato, penso, quello del bere acqua calda, che ovviamente non funziona, anche perché circola soprattutto su WhatsApp una catena che dice di bere bevande di almeno 26-27 gradi centigradi di temperatura, cosa che non ha alcun senso, anche perché l'interno del nostro corpo è a una decina di gradi temperatura più alta, quindi assolutamente 26-27 gradi non scalfiscono l'efficacia del virus, così come non c'è alcun problema nel bere bevande molto fredde o ghiacciate. Non succede niente. Non succede niente. Mettersi al sole invece, molti dicono mettetevi al sole, come una volta nei sanatori smettendo i malati al sole pensando che guarissero così. Mettersi al sole. Tanta letteratura è fatta di questo, di gente con il mal sottile messa al sole dove nascono amori, illusioni, speranze. Ecco. Oggi invece. No, viene proposta un po' come l'alternativa alle bevande calde, cioè se non abbiamo un bollitore a portata di mano ci possiamo mettere al sole, il che anche in questo caso non ha alcun fondamento scientifico. Resta attualmente aperta la questione di quanto eventualmente l'efficacia del coronavirus si attenuerà quando arriverà la stagione primaverile estiva, ma questo non ha nulla a che fare con l'oggi pomeriggio esporsi a 10 minuti al sole, che assolutamente non ha nessun. Ecco, un altro terreno di grande ambiguità è la comunicazione sui numeri, che in realtà sui numeri delle persone contaminate, sul numero delle vittime, sulle circostanze proprio epidemiologiche, anche sui numeri, sulle distanze di sicurezza. Non so se hai visto la foto che gira, me l'hanno mandata almeno 10 colleghi, del signore che si mette una specie di crinolina settecentesca per tenere la gente a distanza di un metro. Sì, l'ho vista, poi è un po' curioso, mi ha colpito molto che ci sono in circolazione, soprattutto in rete, delle distanze con una precisione al centimetro, cioè ci sono alcune fonti che riportano 1,82 m come distanza corretta da tenere rispetto alle altre persone, come se il virus a un certo punto smettesse con estrema precisione di trasmettersi. Altri invece dicono che nel caso degli starnuti la distanza deve essere mantenuta a esattamente 3 metri, perché dopo 3 metri il virus cade al suolo. Cioè si schianta, c'è un'autonomia di volo di 3 metri, poi si schianta, esatto, a terra. Un po' balistica come cosa, in realtà non è così, perché i droplet di cui tanto si parla, quindi queste goccioline, possono rimanere in sospensione nell'aria per un po' di tempo, quindi non è assolutamente il 3 metri la soglia che differenzia la sicurezza dal... È il principio matematico della puzza nell'ascensore, mi spiace ripetere, ma è così, rimane, è inutile scappare via, ti segue e rimane, poi andando avanti. Poi un'altra abbastanza assurda è quella di bere un sorso d'acqua ogni 15 minuti, perché secondo questa teoria si sposterebbe l'eventuale coronavirus presente nel cavo orale giù nello stomaco, dove verrebbe distrutto dai succhi gastrici. Questo assolutamente non rispecchia il modello con cui il coronavirus arriva a infettare il corpo umano, quindi anche questa precauzione non serve a nulla. E poi ci sono anche alcune ricette per riconoscere se si è contagiati. Per esempio, le due più curiose sono: una, ogni mattina quando ci si alza, di fare un bel respiro a pieni polmoni, poi di trattenerlo per 10 secondi e verificare se viene l'istinto di tossire oppure no. Perché il coronavirus dopo 10 secondi ti fa tossire. Sì, secondo questa versione provocherebbe questo effetto misurabile molto preciso, cosa assolutamente non vera. E poi il consiglio, per esempio, di farsi dei gargarismi con il disinfettante, che è un po' una rimodulazione del sorso d'acqua che di nuovo non ha assolutamente. Sì, bisogna stare attenti, anche non lo fate con la varichina, non lo fate con nemmeno con la mucchina, secondo me fa bene fare i gargarismi. Sentiamo un attimo Giovanni velocemente. Sì, pronto, sono in linea? Certo, la sto ascoltando. Senta, si parla tanto di questo coronavirus, ma di tutto ciò che infetta, non si parla mai della moneta contante, che è la cosa più infestante che c'è in giro. Io mi domando, ma i contanti, toccandoli, infestano? Ecco, diciamo che su questa vicenda si è diciamo, articolato un filone truffaldino che ferma signore di una certa età e signore di una certa età dicendo mi dia i suoi soldi, li disinfetto, poi glieli porta via. Ti risulta Gianluca che sui soldi infetti qualcuno? Usate le carte di credito che forse sono meno veicolanti coronavirus. Gianluca, su questa allora, cosa. Allora, effettivamente quello che gli esperti dicono è che attualmente tra le varie cose ancora in fase di studio c'è la permanenza del coronavirus sugli oggetti che vengono toccati. In questo senso però diventa impraticabile l'idea di eliminare del tutto il contatto con oggetti, pensiamo alle maniglie o pensiamo alle prese con cui ci si aggancia in metropolitano sugli autobus. Quindi in questo caso, anziché passare a igienizzare in continuo le superfici, il consiglio è quello di lavarsi le mani frequentemente, ovviamente ogni volta che si entra in contatto con queste superfici, e nel mentre tra un lavaggio e l'altro non portarle mai al volto o vicino alle mucose, che sono le vie attraverso cui il coronavirus può entrare nel nostro corpo. Poi direi, se uno vuole essere proprio sicuro, in autobus si mette i guanti, farà la figura dell'esagerato con i guanti azzurri alle mani, però almeno sta tranquillo e dorme tranquillo. L'ultima cosa, si sta diffondendo nei social la convinzione che noi siamo stati, come al solito, gli italiani i meno furbi di tutti, perché abbiamo fatto più tamponi, mentre gli altri paesi si tengono nascosti i casi di coronavirus e quindi ne escono avvantaggiati. Su questo anche circolano notizie, vero? Sì, allora, sicuramente è vero che almeno in una prima fase il numero di tamponi fatti in Italia era superiore a quello della media degli altri paesi europei. E certamente è vero anche che se si insiste con l'eseguire tamponi si scoveranno un po' più di casi rispetto ai paesi dove si fa questa attività con un po' meno zero. Allo stesso tempo però è vero che in questi ultimi giorni stiamo vedendo la crescita esponenziale dei casi, così come era avvenuto in Italia, anche in altri paesi come la Germania, la Francia e la Spagna, con un trend molto molto simile, semplicemente sfasato nel tempo di 7-10 giorni rispetto a quello che è accaduto in Italia. Abbiamo solo anticipato quello che avverrà in tutta Europa di 7 giorni. Grazie Gianluca Dotti, grazie a chi ci ha ascoltato, a chi è intervenuto. Abbiamo fatto minimamente un primo tentativo di portare un po' di ordine in una comunicazione così frastagliata e così ambigua. Alla prossima.